Radio 24. Libera la voglia di fare. Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. È facile donare il sangue per un politico. Cosa c'è? Io, che sono un cittadino comune, quando dono il sangue non lo sbandiera ai quattro venti. Vabbè, ma che, lei è andato a donare il sangue? Io? No, chiedo, lei è andato a donare il sangue? Stavo per andare a donare il sangue. Ah. Solo che la lobby del Big Pharma mi ha messo il prelievo alle 8 del mattino. Ma che lobby? Bastardi, è un complotto per non farmi donare il sangue. Ma non è un complotto, solo perché... Ma! Lei è andato a spalare a Genova? Dovevo andare. Ah, no, perché... Solo che avevo la macchina senza il bollo. E quindi? La lobby dei tabaccai... Ma chi? Ha costretto il tabaccaio sotto casa a chiudere. Perché? Che ora era, scusi? Mezzanotte. Ma ci credo, ma non è la lobby, è l'orario quello. Ma! Non posso buttare la spazzatura adesso! C'è sua mamma. Vai tu! E dai, con una mano trascini la bomba! Non esiste maniera migliore per spiegare, esemplificare quello che è l'argomento che voglio toccare oggi, è del diffuso analfabetismo funzionale nel ponderare, verificare, diffondere, condividere le informazioni in rete, che il personaggio di Napalm 51, l'ultima creatura di Maurizio Crozza, secondo me la più geniale perché attinge in una tipologia di umanità che non è quella rappresentata dai personaggi noti, dai famosi, dai politici, dalle persone di spettacolo. È qualcosa che serpeggia ormai nella rete, di cui ho già parlato in precedenza e ancora mi sto leccando le ferite per averne parlato, perché solo il fatto di dire che sta circolando ormai in rete una sorta di diffuso pensiero, non è vago, non è destrutturato, non è rappresentato soltanto da poche persone che non hanno un perfetto equilibrio nel gestire la propria emotività, i propri strumenti di condivisione, di espressione del proprio pensiero. No, è qualcosa che sta diventando un sistema, un metodo. È la capacità di trasformare tutto ciò che è assolutamente irreale, improbabile, fallace, illusorio, favolistico, in realtà e concretezza. Come se ci fosse una sorta di cambio totale tra ciò che può avere un plausibile, accettabile termine di esistenza, di verificabilità, di comune e condivisibile certezza, e quello che è naturalmente più improbabile. Sentite Napalm 51 dice che dietro c'è sempre un complotto, c'è sempre qualcosa che noi non sappiamo, sempre qualcuno che ci nasconde una verità. La realtà è fatta di persone che vivono in una sorta di catena solidale per nascondere la verità alla popolazione, alla gente, ai cittadini comuni. E queste verità che si nascondono sono sempre dannosissime per i cittadini. Sono le scie chimiche che servono per modificare il clima. Ancora questa mattina qualcuno mi mandava articoli paradossalmente privi di qualsiasi senso, ma nella sua intenzione totalmente scientifici, che ponevano un rapporto di conseguenza tra le trivelle e il terremoto. Ancora qualcuno pensa che questo terremoto di cui stiamo ogni giorno ascoltando le cronache sia stato artificialmente provato da qualcuno che deve in qualche maniera dimostrare che ha un potere così forte sull'umanità da poter cambiare il clima. E questo vale per tutta un'altra serie di manifestazioni. Questo con una abbreviazione e con un adattamento di un termine a una situazione concreta viene chiamato analfabetismo funzionale. L'analfabeta funzionale è la persona che in realtà è incapace, non è capace a leggere, scrivere, interpretare alcuni messaggi che vengono dalla complessità del mondo che lo circondano. Quindi non sa scrivere il suo nome, sa scrivere un pensiero compiuto, ma non sa interpretare quello che vede, e quindi per lui diventa possibile, anzi diventa la realtà, quello che sembra più imprevedibile. Beh, oggi quanto siete voi coinvolti da questo senso generale di informazione distorta? Dipende veramente, come io sono il primo a sottoscrivere, da un difetto grosso da parte delle persone che per mandato, che per professione, che per vocazione, che per possesso degli strumenti di decodifica del reale avrebbero il compito di informare, o realmente esiste qualcosa che non stiamo capendo, che ha le basi di una totale e nuova religione nella disinformazione? 800 24 00 24. Ci sentiamo tra un istante su Napalm 51. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Queste sostanze, questi elementi chimici vengono normalmente ad oggi disperse tramite il sorvolo a bassa, media ed alta quota di aerei di linea. Gli aerei che tutti possono notare con la loro scia più o meno lunga, più o meno persistente, volano a bassa o a bassissima quota, dove è impossibile che si verifichi il fenomeno della condensazione. Questo è un fatto dimostrato ed inconfutabile. Quelle scie non persistenti che osserviamo nelle giornate con il cielo del tutto sgombro di nubi, condizione indotta ed artificialmente ottenuta tramite la diffusione di elementi chimici igroscopici che impediscono la formazione di cumuli da bel tempo, non sono il non frutto della... Non voglio soffermarmi oltre sulle scie chimiche, che è un classico della informazione distorta, ma do subito segnale di due sintomi di analfabetismo funzionale, due persone che appena mi hanno ascoltato, poi ancora di capire bene, di sentire cosa dirò, mi hanno subito dato la patente di disonesto. Nicoletti, se parla lei radio, chiunque può fare qualsiasi cosa, quindi io sono inadatto, incapace, non ho la patente per parlare in radio, ma soprattutto la patente di bufalo di realtà, chi l'attribuisce, lei o i suoi amici? È già subito il complotto. Io ho degli amici che devo difendere e che devo comunque confutare quella che è la verità nascosta che i miei amici vorrebbero tenere nascosta. Siete talmente ridicoli, siete chi? Io e chi? Chi vedete dietro le mie spalle? Chi sono i miei amici? E quale patente etichetta mi date in questo momento? Siete talmente ridicoli a suscitare pena. Facciamo pena. Lo dico con serenità e non sono offeso. Lo dico perché è un test sociologico questo. L'unica cosa è che dica tutte le minchiate del mondo, ma non si faccia portatore di nulla tranne che del suo cervello. Tristezza infinita. E poi andare avanti, naturalmente, solo se pensate alle balle che spara Renzi ogni giorno, ai giornalisti, ai politici, questo è un altro messaggio. Ormai non si riesce più a capire dove sta la verità, altro che rete. Ora, questo non vuole essere una trasmissione politica. Vorrei, se riusciste a fare uno sforzo e tenere fuori ogni valutazione tipo politico legata alla contingenza politica di questo particolare mese in Italia. Vorrei ragionare, se possibile, con un maggior respiro, prendendomi anche la responsabilità dello sgradimento che posso darvi io. Walter Quattrociocchi, buongiorno. Buongiorno. Walter Quattrociocchi è un ricercatore, dirige il laboratorio di scienze sociali computazionali, istituto IMT, istruzione mercati e tecnologie di Lucca, è autore del libro scritto assieme ad Antonella Vicini, un libro appena uscito, Misinformation, guida alla società dell'informazione e della credulità, edito da Franco Angeli. Innanzitutto mi dia una definizione del termine misinformation. Diciamo che si tratta di quel vaso di Pandora, o Pandoro, secondo dei punti di vista, in cui praticamente vediamo emergere... Pandoro nel senso di dolce natalizio. Sì, esattamente, sì, in quel senso, nel quanto diciamo vediamo emergere queste tendenze al pensiero religioso, perché quello di cui parlava lei alla fine è la sublimazione del pensiero religioso. Assolutamente, è una fede incrollabile. Sì, come però dall'altra parte c'è la controparte scientista, cioè noi diciamo i nostri studi evidenziano che in qualche modo è una tendenza umana quella a cercare praticamente il Dio nei gap, in quello che manca. Siamo di fronte ad una realtà in cui la complessità effettivamente esplode, la visione platonica dell'illuminista è crollata definitivamente e quindi in qualche modo ci troviamo di fronte all'accesso facilitato a qualunque tipo di contenuto. Troviamo persone che la pensano come noi, finiamo per rinforzare il nostro credo e ogni visione antagonista viene a rinforzo della nostra religione o setta. Allora, quando lei dice, Walter Quattrociocchi, noi studiamo, chi siete, come studiate, quali sono gli strumenti della vostra ricerca e il campo di applicazione? Allora, noi diciamo applichiamo il metodo della fisica allo studio dei sistemi sociali. Siamo un gruppo di 6 persone, c'è Antonio Scala, che è un fisico, Guido Caldarelli, che è un fisico, Michela Del Vicario, che è una matematica, e Fabiano Azzollo, che è un'informatica, come me. Quindi voi lavorate sull'evidenza scientifica, non è che azzardate teorie e le fate vostre. Verificate e avete, diciamo, possibilità di dare senso e corpo a quella che è la vostra ricerca. Sì, noi collezioniamo osservabili. cioè osserviamo le evidenze empiriche e da lì deriviamo dei modelli che spiegano il funzionamento di quello che osserviamo nei dati, e troviamo che è proprio esattamente il confirmation bias, cioè la tendenza dell'individuo ad acquisire soltanto informazioni che siano coerenti con il proprio credo, con la propria visione del mondo, e condividerla con i propri amici. Questo praticamente è caratterizzante di tutte le dinamiche sui social. Allora, noi abbiamo, in questo momento stiamo analizzando un nuovo fenomeno che emerge dall'uso sociale della rete, che non era stato previsto da nessun antesignano della rete. Tutti pensavano che la rete sarebbe diventato qualcos'altro, ma al momento, nella sua accezione social condivisibile, cioè il fenomeno ultimo, tutti hanno uno smartphone, tutti hanno capacità tecniche di mettersi in contatto con altri, tutti hanno una maniera facilissima e istintiva di condividere foto, frasi, fonti, link, quindi non serve più nessuna disciplina, nessuno studio, nessuna applicazione per vivere in rete. Agli inizi la rete richiedeva un training molto forte, bisognava saper navigare in rete, saper usare la rete, saper usare gli strumenti di pubblicazione in rete. Oggi la rete è alla portata di tutti, si esprime e si condivide il proprio pensiero con la stessa facilità che si apre una porta e si urla, o una finestra e si urla quello che si pensi. Questo determina un fenomeno che ci dice il dottor Quattrociocchi, simile all'esplodere improvvisamente in una sorta di verminaio è il termine sbagliato forse, di crescita di nuove religioni, nuovi culti. Io cerco qualcosa che confermi il mio modo di pensare. Lo cerco e lo realizzo, quindi lo fortifico condividendolo, cerco persone che condividano questo. Non sono assolutamente interessato a una verifica e a una messa in discussione. Angelo, buongiorno. Marta, che tolgo via la voce, scusate. Sì. Intanto 800240024, chi di voi si sente dentro questo sistema, chi di voi avversa fortemente quello che sto dicendo, sente un senso di disgusto per quello che sto dicendo, perché secondo lui sto mistificando la realtà, mi chiami e ne parliamo con serenità e con tranquillità. Angelo. Buongiorno. Avete già detto praticamente tutto voi alla fine. Non si dice mai tutto, manca sempre qualcosa. Dica, aggiunga il suo contributo. Allora, io come tanta altra gente ero uno che credeva appunto a tante stupidaggini, diciamoci la verità, anch'io ho avuto questo problema in passato, poi comunque ho avuto la volontà di mettere in discussione comunque le mie credenze, perché erano alla fine solamente credenze, e cominciare a guardarmi intorno con obiettività. Internet è comunque in parte la rovina di certe persone per quanto riguarda appunto complottismo e quant'altro, può anche essere nella salvezza, può comunque riportare una persona sui binari se lo vuole. E quindi ho cominciato prima a informarmi su quello che è la verità sulla sperimentazione animale, appunto, quindi a partecipare anche a convegni scientifici e quant'altro, conoscendo altre persone che mi hanno indirizzato meglio, e scoprendo quindi quanto effettivamente ero disinformato sia io che tutte quante altre persone in generale. Questo lei spiega un suo percorso di verifica, non entro in merito che abbia ragione o torto, in realtà la realtà non è mai espressa in maniera manichea, non è mai tutto nero e tutto bianco, bisogna capire se si vuole veramente capire qualcosa di più, evolvere dalla propria condizione di ignoranza, che bisogna darsi un po' da fare. Napalm 51 è perfetto, perché Napalm vive a casa con sua madre, il mondo è quello che lui vede attraverso la rete, e della rete, che è uno strumento meraviglioso, anche se molto acerbo, molto giovane, vede soltanto le cose che confermano appunto il suo atto di fede. Walter Quattrociocchi, visto che voi avete fatto un parallelismo molto interessante fra il nascere di nuove religioni, nascere di nuovi culti, sembra quasi un'epoca di scismi, anche se non si capisce mai quale sia la religione madre da cui nascono le varie filiazioni. Esiste una sorta di classificazione e di possibilità di trovare l'origine di tutto questo? Dove nasce tutto questo? Diciamo che se vogliamo vederla dal punto di vista filosofico, Popper in qualche modo già rispondeva: nel momento in cui si contrappone lo storicismo al pensiero complottista, cioè c'è dalla parte chi è pro istituzione in un momento di crisi e quindi conserva lo stato delle cose. Dall'altra, quindi dal senso di instabilità generale, l'umanità si divide in chi preferisce mantenere, turandosi il naso, facendo tutti gli esorcismi possibili, lo statu quo perché vuole stare tranquillo, e chi vuole rovesciare tutto perché comunque il caos è sempre meglio di qualcosa che sente fortemente negativo, violento, fallace rispetto alla sua realtà. Anche, più che altro è di fronte alla globalizzazione, di fronte al processo tecnologico che esplode, di fronte al mondo che cambia, cerchiamo delle spiegazioni, la scienza ancora non è stato capito che non è una religione ma è un processo conoscitivo, Dio in qualche modo è morto, non me ne vogliono i cattolici, dico soltanto come metafora, nel senso che sì, ormai ci troviamo diciamo di fronte. Diciamo che da quando iniziò il Novecento, che la gente lo dice, ma questo non significa che un atto di fede è qualcosa di deprecabile, è che ufficialmente non esiste una cognizione generale condivisa che esista un Dio. Chi ha un atto di fede, chi ha una visione religiosa della vita e l'applica nel suo quotidiano, è una persona rispettabile, ma la realtà non può essere mediata dal fatto che esista un principio superiore, deve essere mediata da quello che dice lei, da un metodo di verifica che continuamente sovrascrive se stesso. Leggo qualche messaggio, il pubblico è diviso, proprio come dice esattamente Walter Quattrociocchi, fra questi due grandi filoni, che da una parte si sente investito di una sorta di desiderio di conservazione e di argine rispetto al caos che sente di fronte all'uscio di casa, e chi dice no, è il momento di abbattere tutto, tutti a casa, ricominciamo da capo tutto. Filippo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, le racconto la mia duplice esperienza con internet. Io sono un farmacista, era arrivato il momento di fare i vaccini, i famosi vaccini a mia figlia. Da farmacista non ho dubbi, i vaccini vanno fatti. Vengo inondato su internet da tutte le notizie peggiori sulla pericolosità dei vaccini. Devo dire che le notizie sono così tante che cominciano a creare in me una certa apprensione, pur essendo un farmacista. Allora decido di rivolgermi agli operatori del settore, comincio a chiedere ai pediatri, a chi si occupa dei vaccini, giusto per avere ulteriori informazioni, magari anche per avere una maggiore sicurezza. Le risposte che io ricevo non sono esaurienti, si dice semplicemente no, guardi, il vaccino va fatto, punto. Allora io cosa faccio? Ritorno indietro e vado su internet di nuovo, vado sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e cerco tutte le ricerche sui vaccini per capire davvero se convenga o no, pur essendo io un farmacista. Ovviamente le consiglio un libro del professor Burioni, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, che in realtà sì, sintetizza tutto questo. Non è che non esista, probabilmente le persone che ha interpellato lei erano un po' frettolose, esiste un metodo scientifico che ti dice al momento a noi risulta questo, poi sta a lei fare la scelta. Diciamo che la maniera di risalire alla fonte, se si vuole orientarsi nella più credibile maniera, esiste. Ci fermiamo soltanto un istante, devo ahimè dare la linea, gli ospiti restino in attesa e le persone che ancora invito una volta di chiamare all'800240024, soprattutto quelle che non condividono quello che sto dicendo. Mi piacerebbe avere davanti una sorta di Napalm 51 e parlare con lui. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Radio 24 verso la Casa Bianca. Chi sarà il 45esimo presidente degli Stati Uniti? La sfida tra Hillary Clinton e Donald Trump al giudizio del voto. Radio 24 ti racconta l'America che verrà attraverso un lungo viaggio di avvicinamento. Ascolta gli approfondimenti nei programmi, i servizi e gli speciali. Verso la diretta non-stop del voto che ci porterà alla proclamazione del vincitore. Verso la Casa Bianca. Da ascoltare e da leggere su Radio 24 e radio24.it. Melog, cronache meridiane. Cosa? Ho veramente rischiato di finire i miei giorni là sotto. Ma non esageri. Vicino al contatore. Ma sei da tutta sta enfasi per essere sceso qualche volta in cantina. Io non credo. Like, odio, eccolo lo snobettino paraculino di sta minchia. Ma no, chi è? Sergio Mattarella. No, lasci stare il presidente. Cosa ha fatto? Lasci, stia buono. Si fa le foto con il milite ignoto. Ma non è che si caro fa... finto vipettino, facile è... la gara con uno che non ha nome. Fatti una foto con busta dei Subsonica e poi vediamo che prende più like. Ma chi si... Guardi, tra l'altro io pensavo che ce l'avesse con Mattarella per la sua presa di posizione a favore dei vaccini, no? Rimango ammirato dalla figura così cristallina, così, ahimè, quotidianamente presente in tutte le mie peregrinazioni, le mie derive di Napalm 51. e leggo qualche messaggio che è come se l'avesse scritto Napalm 51 in persona. Ci sono libri e studi che indicano una discreta connessione a trivellazione terremoto, altro che disinformazione. Nicoletti, come tutti i giornalisti, nascondi la verità. In rete sono cose vere, ma voi siete appecorati al governo, dite quello che vi impongono. Poi andiamo avanti. Ecco, uno di Radio 24 che parla di informazioni distorte come Satana che dirige una lezione di catechismo. Da un minimo di dignità e pudore. Ecco, un atteggiamento tipico dell'analfabeta funzionale è quello di chiedere sempre dignità, pudore, vergognati. Chi cerca dei semi di ragionevolezza. Io non porto nessuna verità, non impugno nessuna verità, non difendo nessuna bandiera, non ho nessun obbligo a fare questa trasmissione, nessuno mi impone di dire quello che dico e nessuno, da quando sto a questo microfono, mi ha mai detto qualcosa su quello che ho detto. Quindi ho totale libertà, è una mia curiosità, è una mia maniera di capire quello che sta accadendo. Quindi per questo oggi insisto su questo argomento. Claudio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo intervenire semplicemente a seguito di quello che ho sentito dal precedente ascoltatore di farmacista. Io adotto lo stesso metodo, diciamo, sulle cose in cui mi imbatto quotidianamente, cioè cerco sempre di verificare, e il mio campo di competenza maggiore, diciamo, essendo laureato in ingegneria, sono le scienze. Sebbene io capisca perfettamente che ci sono in internet persone che hanno delle patologie, che probabilmente, come le persone che cita prima, che inseriscono in internet delle stupidaggini incredibili, è altrettanto vero però che non possiamo liquidare che in internet ci siano invece delle profonde verità nascoste che possono essere verificate o approfondite, o che almeno vale la pena di approfondire, e che sono più avanzate di quello che ci viene molto spesso comunicato normalmente attraverso i vari mezzi. Può anche essere, io non lo escludo proprio, perché fare un atto di fede, anche come il laicismo estremo è più pernicioso ancora di una fede esasperata, fare un atto di fede contrario, se dicessi che in internet non c'è nulla, ma mi creda, chi conosce la mia storia sa che sono stato tra i pionieri e fra i più entusiasti navigatori, conoscitori, indagatori, sperimentatori della rete, quindi non dico questo. Voglio soltanto capire in questo momento cosa sta accadendo rispetto a un concetto il più possibile assoluto di oggettività e rispetto a una sorta di folle e quasi religiosa passione per seguire delle scie totalmente laterali, totali derive rispetto a quello che è un principio di saggezza o di umana capacità di porsi dei problemi e di vedere la realtà più complessa di quello che sembra semplicemente dalle poche battute di un post. Angelo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Io volevo dirle solamente questo, che secondo me la storia si ripete in modi e forme diverse, però io mi ricordo che quando ero ragazzino, bambino, c'erano storie del tipo si è tolto il casco, si è aperta la testa, le leggende metropolitane. Sì, sì, quindi andavano molto fra gli anni 80 e gli anni 90, in epoca pre-internet. E quindi secondo me un po' sono in forme diverse, ma sono più o meno le stesse cose. Ecco, bisogna mettere il filtro, lo deve mettere ognuno di noi, titolo fa il cervello, quindi che altro dire, ecco, tutto qua. Allora, riprendiamo col nostro ospite. Ricordo che Walter Quattrociocchi, che è in ascolto, ricercatore, dirige il laboratorio di scienze sociali e computazionali istituto IMT di Lucca, ha scritto un libro insieme ad Antonella Vicini, Misinformation, guida la società dell'informazione e della credulità, Franco Angeli. Poniamoci una domanda. Dice il nostro ascoltatore, dice già prima esistevano le leggende metropolitane, ma per conoscerle bisognava prendere qualche libro specializzato sulle leggende metropolitane. I quotidiani per anni hanno continuato a scrivere la leggenda della rissa del matrimonio, della pioggia di serpenti, dei coccodrilli nelle fogne di New York, del tronchetto della felicità con dentro il ragno velenoso, perché potevano, diciamo, ancora credere che queste fossero notizie. Qual è stato però il momento cruciale, l'ora X per cui il leggendario metropolitano è cominciato a diventare una realtà condivisa e diffusa? Diciamo che allora tra la leggenda metropolitana e la teoria del complotto c'è una sottile differenza. Nella teoria del complotto c'è comunque sia in qualche modo un tentativo riconoscibile come paranoia, c'è in qualche modo la semplificazione della realtà e da un processo casuale in qualche modo diventa azione intenzionale fatta da qualcuno che cospira contro di noi. Quindi si rientra nella psicopatologia quando il complotto diventa qualcosa di eccessivamente presente nei propri pensieri. Ma non si, diciamo che il complotto in qualche modo fa parte del pensiero umano. Cioè Bauer della School of Economics fa una bellissima cosa, parallelismo tra la superstizione religiosa e il pensiero complottista, di cui però siamo tutte vittime, perché siamo di fronte alla realtà che esplode in complessità, non siamo in grado di capirla, c'è chi cerca risposte nel mondo scientifico, c'è chi cerca il buon senso e c'è chi dice proprio si dà la narrazione complottista perché è antagonista al sistema. Però in ogni modo l'atteggiamento è quello di semplificare la realtà e in qualche modo sedare un desiderio di controllo, di spiegazione. Poi mi spiega qual è un atteggiamento saggio, perché non si può ignorare che siano esistiti, mi stanno scrivendo molti, allora i servizi deviati, la P2 e via dicendo, è chiaro, sono esempi di realtà parallele, realtà che agivano alle spalle o nelle maglie sottili e nascoste dell'apparato ufficiale. Un buon giornalista, come un attento lettore di giornali o di libri, può trarre degli elementi per capire il più possibile rispetto a quello che si può capire di quelli che erano segreti di Stato, momenti difficili, particolari, che ancora perdureranno. Però quando questo diventa l'unica chiave di lettura, si entra in quella sorta di malattia che afflisse, ahimè, l'Occidente all'inizio delle grandi dittature che hanno segnato comunque tristemente la nostra storia, per cui esistessero delle grandi sinarchie e dei domini sotterranei che tenevano in mano le molle dell'economia, le leve del potere, che volevano condizionare quello che era il costume, l'atteggiamento, la coesione sociale, la moralità. E poi questo è andato a finire, non voglio fare associazioni, possono sembrare abnormi, nel tentativo di sterminio di un numero elevatissimo di persone. Ecco, oggi esiste una possibilità di muoversi in questa sorta di apparentemente simpatico e non nocivo trollismo. Qual è la figura della persona che dovrebbe cercare il più possibile di seminare saggezza o perlomeno capacità di elaborazione delle complessità in questo mondo? Diciamo che quello che manca molto nella comunicazione sui social è la comunicazione empatica. Cioè, lo diceva Samantha Power, l'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU, nel discorso a Yale. Praticamente adesso noi sui social parliamo non per confrontarci, ma per affermare la nostra opinione, quando magari chi abbiamo di fronte potrebbe avere anche ragione. Cioè, manca in qualche modo la comunicazione empatica, quindi l'atteggiamento saggio, da quello che vediamo noi, insomma, in qualche modo, è quello di abbandonare un pochino le strutture, no? Cioè abbandonare la posizione presa e confrontarsi però con il buon senso, non con la facilità, perché anche la destrutturazione nell'ambito complottista è agli antipodi, cioè il pensiero complottista è pieno di strutture, come d'altra parte lo è pure lo scientismo, quello più becero, quello che vede nella scienza un dogma. In qualche modo è la destrutturazione di fronte alla complessità che permette di capire la complessità, non c'è altro modo di capire la complessità. Cioè, bisognerebbe avere una sorta di spiccata e genetica tendenza alla leggerezza, di essere pronti a sovrascrivere ogni proprio pensiero, ogni propria convinzione, ogni proprio punto di vista, essere come delle spugne capaci di leggere, ma non leggere per farsi condizionare, ma leggere per avere nuovi strumenti di analisi e di giudizio. 800 24 0024, tra un istante. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Una ricerca afferma che il 70% della popolazione mondiale è intollerante al lattosio. Un'altra ricerca dice che 7 celiaci su 10 non sanno di esserlo. L'olio di palma contenuto nella cioccolata aumenta del 56% la possibilità di morte precoce. Un'altra ricerca afferma che... Pure la mela! Afferma che una mela al giorno toglie il medico di torno, senza buccia, altrimenti cancro. Un'altra ricerca dice che un bicchiere d'acqua con mezzo cucchiaino di bicarbonato e succo di limone aiuta a curare il cancro. La stessa ricerca dice che se però il cancro non ce l'hai, te lo fa venire. Questa è una catena di bufale raccontate anche con una certa ironia, però con un intento concreto. È fatta dall'associazione Frascati Scienza, che ha fatto proprio un video per far capire quanto ci costa anche in termini economici, visto che molto sono tanto attenti alle spese pubbliche, la diffusione delle bufale, e quanto ci costa anche in termini di salute, in termini di benessere, in termini di felicità sociale. Mi stanno arrivando molti messaggi, mi dicono che in realtà i Napalm 51 non chiamano perché probabilmente saranno lì pronti su Twitter, su Facebook, nei social, a darmi del venduto, del prezzolato, dell'infame, tutte queste cose qua. Luca, buongiorno. No, buongiorno. Ma io volevo contestare solo una piccola cosa, però secondo me non credo che sia stata internet a generare il fenomeno dei Napalm 51, quanto più il fatto che ci siano queste bufale che girano. Ma io, la cosa che mi sconvolge di più, io sono un muratore, ho la terza media, non ho una grande, diciamo, un livello di istruzione. Però scusi, non si denigri, lei ha una capacità di elaborazione e di intrepidezza rispetto alla realtà, che telefona a una radio e esprime il suo parere, molti altri non lo fanno, sì, no. Non si sottovaluti. Ma quello che volevo dire, ma proprio questo è il punto, è che ho notato come anche amici miei su Facebook che cadono nella trappola di questi retori che vendono panzane per la scienza, siano in realtà più stupidi di me. Cioè, io mi domando se non sia il nostro sistema. Lei, Luca, sta usando perfettamente gli strumenti a disposizione che le vengono dati in questo momento. Una radio a diffusione nazionale lascia un numero telefonico aperto in cui liberamente gli ascoltatori possono partecipare e confrontare il loro parere. Mi sembra uno strumento avanzatissimo di dialogo e di scambio di opinione. Scrivere un tweet dando dell'infame, ma non perché io mi offenda, perché è il metodo che non porta a nulla, nemmeno alla persona che twitta. Benedetto. Buongiorno, io sono intervenuto anch'io giusto per fare per chiarire le cose. Non è internet che crea le bufale, internet ha la funzione di creare praticamente una certa un collegamento tra persone, tra chi scrive e chi legge, una fiducia. Non è che tutte sono bufale, perché dire che non c'è una relazione tra il terremoto e il fracking è una bufala, non è una bufala, perché? Perché se vai a leggere praticamente le notizie ti fai delle domande e ti chiedi perché ci sono aziende petrolifere che pagano magari lo Stato olandese perché magari ha creato dei danni con le trivellazioni, e ti fai delle domande. Sì, però allora, scusi, non la voglio interrompere, non so se hai sentito la trasmissione che abbiamo fatto ieri l'altro, proprio dedicata al terremoto. Visto vogliamo entrare in questo specifico, ci ha chiamato un esperto che di mestiere fa il trivellatore, dire che non è comunque una situazione legata al territorio italiano, quel tipo di trivellazione che potrebbe comunque creare dei problemi sismici, non c'entra nulla, non c'entra nulla. Perché lei si fissa adesso questo particolare e non contribuisce all'aspetto più generale? Nessuno dice che la rete è soltanto il luogo delle grandi bufale, c'è di tutto. Però un principio di discernimento, lei è come fosse una religione in questo momento, come se avessi insultato una sua religione, vuole sottolineare il fatto che ho detto che è una bufala la trivellazione che fa venire il terremoto a Norcia, che in realtà lo è, questo già sente una sorta di lesa maestà di quello che è un suo pensiero. Luca, abbiamo parlato con Luca? Sì, abbiamo parlato, allora ritorno con Walter Quattrociocchi, che è la persona che ha analizzato con strumenti scientifici, con dei suoi colleghi, appunto questo problema della disinformazione, anzi misinformation viene chiamata, è la società dell'informazione e della credulità. Vediamo di capire un po' meglio, perché come vede il luogo dell'ambiguità sembra essere la rete. Io sono stato tra quelli che ha maggiormente osteggiato quando Umberto Eco Buonanima disse la rete è piena soltanto di imbecilli. La rete ci insegna che bisogna confrontarsi anche con il lato imbecille dell'umanità. Qual è lo strumento allora? Chi si ritiene un po' meno imbecille, ma solamente perché ha capacità di mettersi in gioco, di confrontarsi in qualche maniera, di avere qualche piccola vittoria di saggezza rispetto al lato imbecille che pur c'è, sia nell'umanità riflessa in rete? Diciamo, gli strumenti che abbiamo a disposizione purtroppo sono soltanto quelli della comunicazione, e la comunicazione prevede due attori, uno che parla e l'altro che ascolta, e poi c'è un passaggio di turni. Il problema è che questa fase non avviene mai, cioè in qualche modo noi abbiamo notato, oltretutto c'è una cosa abbastanza buffa, nel momento in cui c'è il pensiero complottista in atto, loro pensano di essere contro la manipolazione fatta dai poteri forti, no? In qualche modo di avere gli strumenti per, dai nostri studi emerge che invece sono i più facilmente manipolabili. perché hanno facilità di interazione con elementi, con narrazioni, con elementi della narrazione che contengano, che siano pro la loro visione del mondo, pro il complottismo, ma anche con elementi beoti. Ma quindi chi minimamente galleggia nel mainstream, cioè parla al microfono di una radio nazionale, fa parte comunque del complotto, che fa parte del potere, certo, costituito. Struttura il pensiero complottista, no? Cioè, in qualche modo, nel momento in cui c'è la negazione del pensiero, l'interlocutore vedrà strutturare l'esistenza della sua paranoia. Ma perché questo non accadeva, ad esempio, che ne so, nella RAI degli anni 50, quando lo diceva la televisione, era verità inconfutabile per tutti? Qual è oggi il sistema per cui si ha l'opposto contrario? Quello che diceva il TG delle 8 la sera era come se lo dicesse Dio, un'emanazione della divinità che parlasse. Come mai oggi in realtà si ha l'effetto contrario, si è già bollati in partenza come infami, venduti, prezzolati, solo per il fatto che dopo anni di tirocinio, di lavoro, di essersi fatto il mazzo, di aver avuto anche delle grandi occasioni nella vita, comunque si ha il privilegio di poter avere questo tipo di rapporto con le persone che ci ascoltano. Beh, diciamo, in qualche modo questo, credo, cioè una mia opinione, sia figlio anche del fatto della crisi attuale, cioè di cui si attribuisce la colpa agli esperti. Cioè, l'esperto in qualche modo ha visto male, anche in Parlamento il Movimento 5 Stelle in qualche modo il castismo in qualche modo rappresenta l'antagonismo all'elite degli esperti, che in qualche modo ci ha ridotto in questi termini. Quindi in qualche modo la perdita della figura dell'esperto. Quindi è una caduta generale di autorevolezza, anche chi ha l'autorevolezza di scrivere in un grande giornale, di parlare a una grande radio, di esprimersi in un grande programma televisivo, di scrivere dei grandi libri, comunque sia ormai fa parte della cassa, perché il fatto stesso che abbia avuto accesso a queste forme di privilegio di espressione del suo pensiero lo bolla all'istante. Non può esistere nulla che sia sincero, perché già parte sbagliato. Sì, fa parte del complotto. Vabbè, beh, la visione giacobina della realtà, bisogna tagliare tutte le teste e per ricominciare da zero. Sì, ma alla fine quello, abbiamo l'oversimplificazione della realtà, è tutto molto semplice, cerchiamo di rendere tutto molto più semplice di quello che realmente è. Per questo abbiamo problemi, dicevo prima, abbiamo problemi di fronte alla complessità del mondo. Esiste una possibilità di uscita? Voi che dai vostri calcoli e dai vostri studi avete visto una possibilità di uscita? Perché poi il mondo cambia, muta, non è che si arriva sempre a toccare un fondo e poi c'è il caos. Esisterà in questa giovane e così acerba forma di intendere la rete un barlume che poi la riporterà a essere quello strumento formidabile che segna il nostro tempo? In una battuta, perché la sigla ci porta via. Stiamo lavorando a 360 gradi. Uno è l'osservatorio sulla diffusione delle informazioni e tentare vari tipi di narrazioni e vedere l'effetto che fanno. Dall'altro, insegnare la leggerezza, insegnare a prendere le informazioni e prendersi meno seriamente sui social. La parola leggerezza mi sembra il termine fondamentale, quello che prediligo. Grazie, ci sentiamo domani.